Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, sono le 12 e 13 minuti, oggi è giovedì e come da qualche giovedì a questa parte, anche oggi parliamo di condominio, della riforma che è entrata in vigore proprio qualche giorno fa, martedì, rendendo quindi effettive tutte le novità che stiamo approfondendo settimana dopo settimana. Oggi torniamo a parlare della figura dell'amministratore e poi parliamo in modo particolare anche della possibilità per i condomini di staccarsi dall'impianto di climatizzazione centralizzato e una procedura che con questa riforma diventa più semplice e vedremo poi se ci sono aggravi o no per gli altri condomini, vedremo anche uno come si deve comportare nel caso voglia affrontare questo genere di decisione. Come sempre ci accompagnano illustri ospiti in questa puntata per cercare di risolvere ogni vostro dubbio, perplessità, rispondere alle vostre domande. Allora io saluto, collegati telefonicamente, l'avvocato Edoardo Riccio, componente del Centro Studi Nazionale di ANACI. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E saluto anche il collega del Sole 24 Ore, Saverio Fossati. Buongiorno Saverio. Buongiorno a tutti. Prima però di dedicarci al nostro tema, vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Prima di tutto andiamo a dare un altro sguardo ai mercati. Oggi è una giornata particolarmente difficile per i listini, non solo per quelli europei, è stata una seduta difficile anche per i listini asiatici, con il Nikkei che ha chiuso con una flessione dell'1,74%. Per quel che riguarda l'Europa, in questo momento i cali sono piuttosto pesanti. Parigi e Francoforte cedono il 2,3% circa. Anche Londra in questo momento la flessione del 2,32%. Leggermente meglio fa Milano, dove il FTSE MIB cede l'1,71% e il FTSE All Share l'1,59%. Certamente pesano, ma come da previsioni, le parole, quelle dette e quelle non dette da Ben Bernanke ieri sera al termine della due giorni di meeting della Fed, conferenza stampa ieri sera alle 20:30 ora italiana. Bernanke ha detto che se i target dell'economia statunitense saranno confermati, a cominciare dal termine di quest'anno, la Fed ridurrà progressivamente l'acquisto dei titoli di Stato, un programma che poi si concluderà nel corso del prossimo anno. E ovviamente i listini sono stati spaventati da queste parole. Ricordiamo che fino a questo momento la Fed ha mantenuto una politica monetaria molto espansiva, che ha aiutato ovviamente l'andamento di tutti i listini. Tornando velocemente a Piazza Affari, pochissimi titoli che riescono a guadagnare, tra questi c'è Azimut che è in progresso di quasi un punto percentuale. Azimut beneficia di una raccomandazione di Goldman Sachs che consiglia buy sul titolo e quindi consiglia di acquistarlo. Finmeccanica è in progresso in questo momento dello 0,10%, ma è arrivata a guadagnare anche di più di questo, e questo in relazione soprattutto agli ordini che sono arrivati negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Autogrill in questo momento passa in territorio negativo, cede uno 0,19%, quindi come avrete capito, oltre ad Azimut e Finmeccanica non ci sono altri titoli che stanno guadagnando sul listino principale. Il peggiore in fondo troviamo la Banca Popolare dell'Emilia Romagna che cede oltre 5 punti, ma sotto pressione tutto il comparto bancario, perché giù troviamo Intesa San Paolo che cede oltre 3 punti, così come UbiBanca, la Popolare di Milano, Unicredit cede il 3,13%, il Banco Popolare cede il 3,07%, Monte dei Paschi cede 2 punti e mezzo, insomma tutto il comparto bancario in grandissima difficoltà. Lieve rialzo del differenziale tra BTP e Bund, siamo a 276 punti base, mentre abbiamo in flessione il cambio euro su dollaro, arretra la moneta unica 1,31,89 il cambio in questo momento. Lasciamo i mercati, vi ricordo ancora una volta i numeri attraverso i quali potete contattarci, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS, la nostra scheda. La riforma del condominio è ormai una realtà. L'effettiva entrata in vigore è scattata martedì scorso. L'amministratore diventa quindi un professionista a tutti gli effetti e nel ricoprire questo ruolo si dovranno rispettare nuovi standard e garantire alcuni requisiti di formazione professionale. Cambia il modo di agire nei confronti dei condomini morosi. Diventa obbligatorio il conto corrente condominiale. Ci saranno nuove maggioranze per le votazioni nelle litigiose assemblee e molto altro. Tra le tante novità, ce n'è una che riguarda il riscaldamento. Forse poco sentita in questi giorni di caldo estivo, ma sicuramente molto importante per tanti italiani che vivono in condominio. Ci si potrà infatti staccare più facilmente dall'impianto di climatizzazione centralizzata se questo non comporta aggravi per gli altri condomini, provvedendo in modo autonomo a riscaldare la propria casa. La decisione non richiederà particolari procedure burocratiche, ma chi rinuncia è tenuto a concorrere al pagamento di alcune spese condominiali relative all'impianto di riscaldamento, in particolare quelle per la manutenzione straordinaria dell'impianto, per la sua conservazione e messa a norma. Non sarà però più tenuto a pagare per l'acquisto di combustibile e per le altre spese di gestione. Come sempre avviene in questi casi, quando parliamo di condominio, poi le domande sono davvero tante, sono già cominciate ad arrivare al 349-238-6666, domande che vanno anche oltre, diciamo, i temi che vi proponiamo oggi, e quindi il distacco dal riscaldamento centralizzato e alcuni aspetti della figura dell'amministratore. Cercheremo un po' di, per quanto possibile e ovviamente sempre con l'aiuto fondamentale dei nostri ospiti, di cercare di rispondere a tutti i vostri dubbi. Prima però volevo, per introdurre un po' il tema, chiedere all'avvocato Riccio se già avete avuto, come dire, qualche problema con la nuova normativa, visto che è entrata in vigore qualche giorno fa, si attendeva, se già vi ha dato, sapete di qualche problema. Le cose principali sono l'argomento che occupa questa trasmissione, cioè il riscaldamento. Sì. Sono già arrivate agli amministratori molte richieste, molte comunicazioni, e tante sono le informazioni che vengono richieste all'amministratore e anche all'associazione su come comportarsi in questi casi. E a questo proposito abbiamo anche, come dire, possiamo ricollegarci, perché un ascoltatore ci chiede anche proprio come deve fare un amministratore. Nel caso specifico lui è un condomino amministratore e si chiede come aggiornarsi, come insomma tenersi al passo anche con questa nuova normativa. Dunque, la formazione periodica è diventato requisito essenziale. Non lo è per coloro che amministrano il condominio nella quale sono condomini. Per tutti gli altri invece, che sono considerati professionisti ai sensi della legge 4, è un adempimento che non può non essere rispettato. La legge all'articolo 71 bis ci dice che è necessaria la formazione periodica, ma al momento non ci sono indicazioni su cosa si debba intendere, su quali sono i requisiti che soddisfino, quali sono i requisiti minimi, soprattutto, sì, che soddisfano questo requisito. Senta, avvocato Riccio, a proposito dell'amministratore, così cerchiamo di concludere almeno questo tipo di aspetto. C'è questa possibilità del riconoscimento, della certificazione europea, che non è un obbligo, ma è sicuramente in qualche modo, come dire, un requisito che, se ottenuto, dà dei punti in più, almeno diciamo dal punto di vista marketing, chiamiamolo così. Beh, subito dopo la legge che ha modificato la disciplina del condominio è stata approvata la legge 4 del 2013, che ha riconosciuto le associazioni quale elemento importante e fondamentale per, sì, quanto riguarda le professioni non riconosciute. Certo, far parte di un'associazione che ha pubblicato sul proprio sito quali sono i propri requisiti minimi di partecipazione e di iscrizione, ivi compresi i requisiti di onorabilità, già citati anche dalla stessa legge, oppure i requisiti minimi per la formazione, sì, l'aver frequentato un corso di formazione, l'avere un'assicurazione. Diciamo che dal 18 giugno far parte di un'associazione che possa non solo accogliere, ma anche attestare la sussistenza di questi requisiti all'amministratore non può che far bene, ma anche al condomino. Ecco, perché... questo volevo intendere, perché comunque esatto, è come se fosse una garanzia, insomma, quando si va poi a scegliere l'amministratore può essere quel titolo in più che può fare la differenza. Certo. Sì, perché il condomino, attraverso un duplice passaggio, può andare prima sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e vedere quali associazioni sono state, sì, inserite in questo elenco. Da qui andare sul sito dell'associazione e in questo vedere tutti i requisiti minimi di onorabilità e soprattutto di professionalità, perché è comunque una legge che punta sulla professionalità, così come è giusto che sia, perché l'amministratore è un professionista a tutti gli effetti. Certo, certo. Attraverso il sito può anche vedere quali sono le tutele. Non ricordiamoci che la legge stessa impone alle associazioni di dotarsi di un codice di condotta. Il codice di condotta non è altro che le modalità di comportamento del proprio associato nei confronti dei condomini. E questo è importante perché la violazione di questo codice può dar, certo, luogo ad una procedura non di contenzioso, di precontenzioso, nel quale il condomino o condominio può essere assistito dalle associazioni dei consumatori e nelle quali si cerca di capire che cosa è successo, se è un errore, e se, sì, l'errore è grave, l'amministratore può anche essere sanzionato dalla propria associazione. E qui si vedrà anche la serietà delle associazioni, certo, che a un certo, certo, punto non tutelano solo il proprio amministratore, ma pensano anche ai condomini, che in fondo sono i destinatari dei propri associati. Assolutamente. Abbiamo già un ascoltatore in linea che ha chiamato l'800240024, Romano da Roma, buongiorno. Salve, regolamento di condominio. I vostri esperti nella puntata precedente non facevano che riferirsi al regolamento di condominio. Sì. Il notaio non me l'ha dato, l'amministratore nemmeno, dice che in assenza, gliel'ho chiesto per iscritto a voce, sì, dice che in assenza del regolamento di condominio vale il codice civile. E ho letto nei vari libri, ahimè, che ho dovuto comprare sul condominio, sì, che potrei annullare l'assemblea se non c'è. Poi, mi scusi, si parla tanto di IMU, ma non dell'alto costo del condominio, spese portiere, conguaglio a fine anno, in 22 anni 10 stupide cause fra condomini, spese avvocati, e ogni anno aumenta la quota. Insomma, per una modesta casa, qui a Roma, spese di condominio circa 3.000-3.500. Molto alte. Allora, quindi, certo, dire, no, capisco, signor. Assolutamente, signor Romano, lei ha anche ragione da questo punto di vista, però ovviamente poi ci sono le assemblee che devono approvare il rendiconto, il preventivo, insomma su questo delle alte spese di condominio non entrerei, almeno non per oggi. Però Saverio, questo punto del regolamento non è solo il signor Romano che lo ha sollevato, è vero, neanche nelle altre puntate ne abbiamo parlato spessissimo, e anche negli sms vedo che è un tema che sta molto a cuore, perché il regolamento di condominio forse a volte lo sottovalutiamo, ma poi insomma è lì, se c'è bisogna rispettarlo. Sì, però lui pone un altro problema, sì, cioè io non ho il regolamento di condominio, va bene, può succedere, cioè il regolamento di condominio non è obbligatorio, sarebbe obbligatorio, ecco, per tutti i condomini con più di 10 proprietari, 10 condomini. Ma se in qualche caso non è stato fatto, beh, non c'è una sanzione, uh-huh, è molto semplice, quindi può capitare che ci sia qualche condominio, magari con più di 10 condomini, anche se raro, che non abbia fatto il regolamento di condominio. Sì. Pazienza, cioè si sbrighino a farlo, però non c'è né una sanzione amministrativa, né civilistica, né penale, se non è stato fatto questo regolamento. Quindi in assenza del regolamento ovviamente si usa il codice. Vale il codice. Come fanno i condomini più piccolini con meno, certo, di 10. Quindi in questo caso il notaio e l'amministratore di questo condominio sono nel giusto, nel rispondere al signor Probabilmente Romano. Non hanno mentito, se non c'è, non c'è, non penso che non volessero darglielo per qualche oscura No, ragione. Beh, certo, per qualche motivo recondito, ovviamente. Diciamo che lui ha il diritto di sollecitare gli altri condomini perché facciano un regolamento di condominio. Come? chiedendo all'amministratore che si faccia un'assemblea condominiale che abbia a oggetto sì. La delibera relativamente alla formazione del regolamento condominiale e eventualmente impugnando il rifiuto dell'assemblea dei condomini di redigere un regolamento condominiale, anche se è molto difficile che questo avvenga. Per quanto riguarda invece le spese eccessive, condominiali. Molto brevemente, non è che c'entrino con l'IMU. L'IMU è l'imposta comunale che viene esatta. Forse il signor Romano non voleva metterle, come dire, in relazione in questo modo, voleva dire, è le vero, spese condominiali fronte sono dell'IMU. Alte, ma dipende esatto. dai condomini, cioè certo. sono i condomini che decidono che cosa fare, cosa pagare, chi nominare amministratore, quali fornitori adottare, certo. quindi voglio dire, se le quali, sono alte quante, è un'avventura, certo, certamente, affrontare. Però quando uno va al ristorante e scopre che c'è un conto, voglio dire, da pagare, si può giostrare fra alcuni risparmi, certo. certamente, ma quando uno assume il portiere, c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro, la fornitura di riscaldamento, quello è, al massimo si può cambiare, fare una caldaia ad alto rendimento, certo. quindi risparmiare, però sono tutte cose che sono nelle mani dei condomini, non è una specie di sventura cosmica questa esatto. delle spese condominiali. Certo, tutto qua. Assolutamente. Le 12:34 minuti, stiamo parlando di alcuni aspetti della riforma del condominio entrata in vigore qualche giorno fa. Allora, io per in qualche modo concludere il discorso sul regolamento, Saverio, volevo girarti anche un SMS perché un ascoltatore ci chiede, nel caso in cui ci sia comunque il regolamento condominiale, questo è preminente sul codice civile? Sì, naturalmente è preminente sul codice civile. Purché non vada a incidere sulle cosiddette norme inderogabili di ordine pubblico. Quindi in linea di massima sì, è come un contratto tra i privati, in realtà soprattutto certo. appunto se è un regolamento contrattuale, cioè condiviso da tutti, sì, sì. fa legge relativamente a quel condominio, tolte alcune norme che naturalmente non si possono certo che non si possono non in si possono modificare. Derogare. Certo. Allora, Avvocato Riccio, io invece a questo punto introdurrei proprio il tema del nostro approfondimento, che è quello relativo alla possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato. Possiamo confermare che con questa riforma del condominio questa decisione da parte del condomino diventa più semplice? Ma sostanzialmente la legge ha recepito un orientamento giurisprudenziale che già in precedenza dava la possibilità ai condomini sì. di staccarsi qualora ricorressero determinate condizioni che in parte sono state riportate in questa legge. Non vedo grosse modifiche sotto l'aspetto della facilità o meno. Era prima, adesso è normato in maniera diversa. Sì. Ma è comunque normato un principio che era già stato fatto proprio dalla giurisprudenza. Possiamo ricordare quali sono, diciamo, il condomino può staccarsi se sussistono delle condizioni? Sì, ecco. Dunque, innanzitutto va detto che non è richiesta la preventiva, anche se opportuna, comunicazione all'amministratore. Non è richiesta, anche se opportuna, quantomeno una disamina in assemblea. Sì. I requisiti sono che... Diciamo che è sempre bene quando uno vive in un condominio con altre persone dare anche comunicazione, anche per un quieto vivere, insomma, diciamo. Non solo, ma anche perché sarebbe la sede per riuscire a dimostrare ai condomini la sussistenza dei requisiti. Perché la sanzione certo, per l'insussistenza certo. dei requisiti è il riallaccio. Posto che la legge non richiede che questi requisiti debbano essere dimostrati prima, sì. però non possiamo non pensare che il distacco comporta dei costi, non tanto per il distacco in sé, quanto perché il condomino si deve dotare di un sistema autonomo certo, di produzione certo. del calore. Se successivamente non si dovesse riscontrare la sussistenza di questi requisiti, la pena, tra virgolette, è il riallaccio con ulteriori costi. Certo. Quindi una disamina congiunta anche con il supporto di perizie è più che opportuna. Potrebbe evitare delle grane future, certo. E delle spese inutili. Certo. I requisiti sostanzialmente sono due. Il condomino si può distaccare laddove non derivino notevoli squilibri di funzionamento. Ecco, il notevole è stato introdotto dal legislatore, prima la sentenza non ci dicevano questo. Viene da dire che prima del notevole c'è il quasi notevole, quindi vuol dire che degli squilibri ci possono essere. Poi sarà la scienza e la tecnica a stabilire cosa è notevole e cosa si ferma al quasi notevole. Ecco, innanzitutto va chiarito che per squilibrio non si intende lo squilibrio termico derivante dal fatto che un appartamento distaccato è più freddo rispetto agli altri. Sì. Su questo la Cassazione si era già pronunciata e non vedo motivo perché non possa trovare ancora lettura quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo squilibrio è impiantistico, cioè se a seguito del distacco l'impianto non funziona più bene. Ah, ok. Io la leggerei in questi modo. Termini, confermando quelle sentenze nemmeno troppo datate, se non ricordo male siamo nel 2010-2011, quindi ancora molto attuali. L'altro requisito è che non vi siano aggravi di spesa per gli altri condomini. Ecco, al termine aggravio non viene indicato, non viene non c'è nessun parametro, quindi viene da intendere che ci deve essere aggravio zero. Anche certo. 10 euro in qualsiasi, teoria. Certo, qualsiasi tipo di aggravio, da appunto una somma molto piccola a una somma molto grande, deve essere considerato la stessa stregua. A questo proposito, io darei la linea a un ascoltatore che fa una domanda attinente, magari in parte abbiamo già in qualche modo risposto. Emanuele da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, pronto? Può parlare. Sì, sì, salve. Sì, ci dica. Io appunto volevo sapere, proprio a proposito della possibilità di un aggravio, e l'aggravio immagino che sia a livello di consumi, per esempio, se io mi stacco la caldaia continua a pompare la stessa acqua calda, però i costi vanno tutti sui miei vicini di casa. Sì. Ma se io mi mettessi d'accordo con loro per coprire questo piccolo aggravio, sarebbe un accordo interno, potrei mantenere il distacco dal... dall'impianto centralizzato. Avvocato Riccio, ovviamente l'ascoltatore ci chiede anche il tipo proprio di aggravio su quale aspetto e se può trovare un accordo con i condomini a questo proposito. Ma innanzitutto va detto che è un lettore molto attento, un ascoltatore molto attento, perché il legislatore nell'individuare quali spese restano a carico del condomino successivamente al distacco fa riferimento solamente alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e della sua conservazione messa a norma, quindi degli interventi sull'impianto di riscaldamento, ma non prende in considerazione le altre spese di godimento. Le ha dette giustamente l'ascoltatore. E quali sono? Le dispersioni di calore. L'acqua calda prodotta comunque deve essere portata nel sistema di distribuzione, ma pensiamo anche alla forza motrice necessaria per far funzionare la caldaia, per far funzionare le pompe di circolazione. E perché non pensare al terzo responsabile? Quindi queste spese, dove prima venivano ripartite tra 20, domani saranno ripartite tra 19, quindi a mio avviso c'è comunque un aggravio di spesa. Ora, la legge ci dice quali sono i diritti del condomino, nulla vieta, come suggerisce l'ascoltatore, che il condomino decida di farsi carico di quell'aggravio che il legislatore non ha previsto, ma che ci sarà sicuramente, in quel caso a mio avviso avrà rispettato i due requisiti, quello del notevole squilibrio, ma lo deve dimostrare a parte, e quello dell'aggravio di spesa, sicuramente gli altri condomini sono rimasti indenni da qualsiasi aumento dei costi, quindi non vedo quale interesse possano avere a contestare una cosa di questo Cosa di questo genere, certo, poi soprattutto se intercorre un accordo tra le parti. Allora, ci sono ovviamente alcuni sms che riguardano proprio la possibilità del distacco, perché ci ricordano alcuni ascoltatori che in alcune regioni questo non è possibile. Quindi, che succede? Quale legge è valida, Saverio, per le regioni che non lo consentono? Allora, la questione è un po' complicata perché probabilmente con questa disposizione il legislatore è andato a toccare una normativa, se non esclusiva, quantomeno concorrente, quella delle regioni, con quella certo. delle regioni, quindi so che la regione Piemonte ha già Sì. emanato una disposizione che in sostanza dice, una delibera, mi pare un'interpretazione, che in sostanza dice, ma da noi comunque bisogna rispettare la nostra legge che proibisce nel Legge. modo assoluto, più assoluto il distacco dal riscaldamento, così come proibisce anche la creazione di impianti autonomi nelle case di nuova Sì. costruzione. Quindi in Piemonte la vedo complicata, diciamo, l'attuazione di una, Sì. l'attuazione pratica, lo sfruttamento, diciamo, pratico di una disposizione del genere. E so che anche in Liguria si stanno muovendo nella stessa direzione. È ovvio che se si arriva a un conflitto normativo, poi alla fine sarà la Corte È Costituzionale a certo che stabilire se ne com'è la dovrà faccenda. occupare, dovrà E quindi decidere chi. sarei molto prudente, però adesso nel concreto voglio dire, con questi due limiti così forti, cioè Sì. soprattutto la questione dell'aggravio di spesa, Sì. anche se si dà un'interpretazione del tipo che l'aggettivo notevoli possa riguardare anche gli aggravi e non solamente gli squilibri, che so che c'è qualcuno che sta ragionando in Sì. questi termini. Mi sembra veramente complicato riuscire poi a realizzare questa faccenda del distacco, che tante volte oltretutto è determinato non dalla volontà dissennata del condomino che vuole avere l'impianto autonomo a tutti i Sì. costi, ma proprio dal fatto che la massa dei condomini non vuole cambiare la caldaia, lasciando caldaie obsolete Sì. o autoclavi obsolete che non consentono uno sfruttamento efficiente dell'energia. Quindi alle volte, molte volte all'origine della richiesta di Sì. distacco c'è questo. Allora, considerando anche che adesso c'è uno sconto del 65%, una detrazione del 65% su questo tipo di interventi di risparmio Certo. energetico, considerando che si sta riflettendo attentamente su queste Sì. buone ragioni del risparmio energetico, è possibile che ci sia anche una spinta da parte dei condomini meno ostinati, condomini composti da condomini meno ostinati, a Rivedere rinnovare un po' tutto il l'impianto e problema, risolvere questa faccenda certo. all'origine, perché Infatti tante un volte è un ascoltatore problema puramente È tecnico, certo, infatti questa un della volontà di ascoltatore distacco. o un'ascoltatrice, non so perché non si firma, ci scrive il distacco possibile in teoria è in sostanza impossibile perché un aggravio ci sarà sempre. Paola dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho una domanda. Noi abbiamo un locale caldaia che è, la caldaia è stata dismessa già da diversi anni, tutti i condomini hanno il riscaldamento autonomo. Questo Sì. locale caldaia è rimasto in uno dei due palazzi che usufruivano di questa caldaia. La mia domanda è, adesso questo locale, il condominio dove fisicamente si trova, ne può disporre, non so, venderlo a un condomino oppure usarlo come deposito biciclette, quindi mettere un lucchetto, Quindi chiuderlo, disporre senza di questo interpellare spazio l'altro? comune. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Allora, cerchiamo di dare una risposta anche alla nostra ascoltatrice che ci ha chiamato poco prima della pausa dedicata al traffico. Avvocato Riccio, per quel che riguarda queste parti comuni, in questo caso si parla di un locale dove prima c'era la caldaia, poi la caldaia è stata dismessa. A questo punto, che cosa ne possono fare i condomini di questo spazio? Innanzitutto bisogna verificare se c'è un regolamento contrattuale. Il regolamento contrattuale è quello che viene allegato solitamente al primo atto di acquisto e richiamato in tutti gli acquisti successivi. Ecco, se in questo regolamento contrattuale ci sono dei divieti o delle disposizioni particolari, vanno rispettate. In assenza di questo, i condomini, anche modificando eventualmente il regolamento, possono cambiare l'utilizzo di Sì, quel locale che adesso non svolge più le funzioni la per il quale funzione. era stato destinato all'inizio. E quindi puoi decidere cosa farne, insomma, Sì, sostanzialmente. modificando il regolamento eventualmente. Allora, avvocato, io le giro anche un SMS che ci è arrivato perché un ascoltatore o un'ascoltatrice, anche qui non sappiamo perché non si firma, desidera sapere se nel momento in cui ci si distacca e quindi si decide di avere un riscaldamento autonomo, che tipo di documentazione e certificazione eventualmente bisogna fornire all'amministratore del nuovo, ovviamente, impianto che si mette dentro casa. Innanzitutto stiamo parlando di sistemi di produzione del calore quasi tutti sotto i 35 kW, Sì. per i quali grossi adempimenti non sono previsti. Certo, sussiste una responsabilità del condomino per quanto riguarda la sicurezza all'interno della propria unità immobiliare, Sì. Perché una situazione di insicurezza nella propria unità potrebbe andare a creare una situazione di non sicurezza e quindi di pericolo anche nei confronti delle parti comuni. Adesso l'amministratore di condominio, in forza del registro di anagrafe condominiale, è tenuto ad assumere informazioni anche e soprattutto riguardo i dati riferiti alla sicurezza, quindi il condomino deve comunque informare l'amministratore di ciò che ha fatto e della regolarità di quello che ha fatto, certo. Di quello che ha fatto, sia alla regola dell'arte sia alla regolarità documentale. Saverio Fossati, ci sono regolamenti che possono vietare il distacco dal centralizzato, dall'impianto centralizzato? Penso proprio di sì, non ho mai sentito parlare, ma penso proprio di sì. Perché... Tra l'altro, riguardo a quello che diceva quella signora, c'è uno strumento che è abbastanza utile, che è una delle novità della legge di riforma, che è l'articolo 1117 terzo, la modifica delle destinazioni d'uso, cioè adesso con una maggioranza speciale dell'80% insomma, dei condomini dei milesi, si può cambiare la destinazione d'uso, proprio è un caso classico, credo, di locali appunto non più utilizzabili come locali caldaia. Quindi anche se il locale caldaia fosse destinato a locale caldaia nel regolamento condominiale, con una votazione così pesante, diciamo, si può decidere che venga destinato ad altro uso, per esempio appunto alla custodia delle biciclette con una maggioranza, certo è impossibile venderlo, questo lo sappiamo senza l'unanimità, però almeno c'è questo strumento. C'è questa possibilità, certo. Sì. Tra l'altro, sempre a proposito di quanto detto finora della possibilità del distacco, Saverio, voglio leggerti anche un altro sms di un ascoltatore, Stefano, che ci scrive: questa formulazione dell'articolo della nuova legge sul distacco porterà ad un rilevante contenzioso. È già necessaria una nuova riforma. Che ne pensi? Sì, penso che certamente, come tutte le leggi importanti che vanno a sconvolgere una situazione abbastanza sedimentata nei secoli, probabilmente ci sarà un primo inizio di contenzioso, però non dimentichiamoci che il contenzioso è indispensabile per arrivare a delle pronunce della Corte di Cassazione che chiariscano i numerosi punti dubbi che ci sono, come sempre, perché la legge è generale ed astratta, i condomini sono un paio di milioni, quindi sono molto inutile concreti. Pensare, insomma, non è una fattispecie penale, no? Tipo t'ho ucciso, è chiaro, abbastanza chiara la faccenda, qui insomma si tratta di andare a incidere su situazioni che saranno una molteplicità di situazioni concrete, di varietà infinite, e quindi le sentenze devono esserci al più presto, quindi ci sarà una fase di contenzioso, lo prevedo, sarà intensa, i primi 3 anni probabilmente sarà piuttosto, 6 anni, sarà piuttosto forte, dopodiché si cominceranno ad assestare le cose e alcune si chiariranno anche. Comunque il SORE, insieme con tutte le associazioni degli amministratori condominiali, ivi compresa la NACI, ha promosso un disegno di legge, piccolo disegno di legge, per chiarire tecnicamente, semplicemente tecnicamente, alcuni dei punti dubbi principali, no? Per esempio quello dell'obbligo del fondo condominiale, la maggioranza speciale pesante per fare le modifiche sul risparmio energetico in caso siano delle innovazioni. Ecco, quindi è già in corso un tentativo di correzione. Di correzione, insomma, del resto. Sta seguendo un deputato, l'onorevole Torisi, che diciamo si è prestato gentilmente, peraltro è stato il relatore di questo della riforma lo scorso novembre, e ha capito l'importanza di queste correzioni, se ne sta facendo carico, quindi alcuni aspetti si chiariranno forse in tempi piuttosto rapidi. Allora, Avvocato Riccio, io le giro invece un altro sms che tratta di un argomento diverso, ma ci hanno scritto alcuni ascoltatori che vorrebbero capire. Per quanto riguarda i lavori straordinari, vorrebbero avere dei chiarimenti sui versamenti anticipati per queste spese per lavori straordinari. Ci sono degli adempimenti particolari? Ci sono delle regole particolari da seguire? Ma ne ha anticipato prima, nell'ultimo intervento, il dottor Fossati. L'articolo 1135 riferito alle attribuzioni e alle competenze dell'Assemblea prevede che, diversamente da quanto accadeva prima, laddove vanno ad essere deliberate opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, è necessario e obbligatorio, così prevede la legge, costituire un fondo di importo pari all'ammontare dei lavori. Allora, qui si sono aperte due interpretazioni. Una, le chiedo di essere brevissimo, avvocato, perché abbiamo meno di un minuto. Brevissimo. Uno, che il fondo deve essere previsto e non è necessaria l'intera raccolta dei denari. Sì. L'altra, quella più restrittiva, che sembra più aderente al dato letterale, è che finché non ci sono tutti i soldi non è possibile, sì, nemmeno sottoscrivere il contratto d'appalto, e questo è altamente penalizzante. Allora, il tempo a nostra disposizione sta velocemente terminando, io però vi posso dire che per quanto riguarda le tabelle millesimali se ne parlerà la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre puntata dedicata al condominio. Io ringrazio l'avvocato Edoardo Riccio, componente del Centro Studi Nazionale di Anaci, ringrazio moltissimo il collega del Sole 24 Ore Saverio Fossati, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.